Ecco, ieri quando Marco mi ha chiesto di poter fare questa meditazione sempre in sostituzione, no, del titolare che ancora non è abile ad essere presente, gli chiedevo: ma hai qualche suggerimento? E mi ha dato una serie di possibilità su questioni attuali anche della Chiesa, no? Il sinodo dei giovani che comincia tra poco, i viaggi che il Papa ha fatto, anche quello a Palermo per il padre Puglisi, quello insomma in altre nazioni. E allo stesso tempo però, cioè, a me viene in mente, dico, guarda, c'è anche questa possibilità che c'è un fatto di attualità molto più banale, molto, se volete, più familiare, dell'Opus Dei, nel senso che il 2 ottobre prossimo è uno degli anniversari della fondazione, quando il San José Maria, il giovane sacerdote Don José Maria, 26enne, ha avuto dal Signore una luce nella sua preghiera e ha capito che doveva fare aprire, diciamo così, i cammini divini della terra. Lui diceva, cioè aprire, svelare, ritornare a ricordare ai cristiani che in fondo il loro battesimo era una chiamata a essere come Cristo. Ma quindi, diciamo, in un certo senso, lui diceva, è una realtà vecchia come il Vangelo, però un po' come il Vangelo nuova, sempre nuova perché va sempre riscoperta, no? Senz'altro era in un'epoca, 90 anni fa, no? In cui forse i cristiani vivevano un cristianesimo molto di società, no? E forse però in qualche caso, ma è che la Chiesa è sempre da riformare, no? È sempre da rinnovare. E allora io, pensando a questa meditazione, dico, però d'accordo, c'è questo giorno in cui, che poi è il giorno dei Santi Angeli Custodi, cioè la festa degli Angeli Custodi, in cui io celebrerò la messa degli Angeli Custodi, però con un particolare senso così di ringraziamento a Dio per questa novità che 90 anni fa era una novità, è inserito nella Chiesa, che ha aperto a molti laici così la prospettiva di sentirsi chiamati da Dio a vivere la pienezza del Vangelo nelle situazioni più diverse della vita. E come fare questa meditazione? Ho pensato, guarda, prova a pensare a quali testi del Vangelo possono appunto servire a dire qualcosa di questa luce che ebbe quel giovane sacerdote nella Madrid di quegli anni là. E naturalmente poi a quel punto ne sono venuti in mente tanti, perché in fondo tutto il Vangelo può essere, insomma, siamo chiamati a viverlo tutto, no? Quindi, anzi, lui ricordava come San Francesco il Vangelo sine glossa, cioè in qualche modo vissuto con la pienezza autentica che ha. Però, comunque, volendo fare una meditazione, mi sono venuti in mente tre punti, proprio perché in fondo, se quel giorno la nostra preghiera può essere un po' come quella vetrata, che forse voi non vedete, che dice grazie, stibi Deus, grazie, cioè ti ringrazio, Signore, no? Ti do il mio ringraziamento. E perché noi, con grazie a quella luce, a quel giovane sacerdote che ha dedicato poi la vita ad aprire a tanti di noi queste prospettive di cristianesimo vissuto nella nostra quotidianità, a me veniva in mente, ecco, il primo Vangelo che vi volevo citare, che mi è venuto in mente, è quello dell'infanzia di Gesù. È un paradosso che in fondo io imparai proprio dai libri o dall'insegnamento, insomma, di Escrivá, quando ero ancora liceale. Mi ricordo una discussione, sa, col mio professore di religione al liceo qui a Milano. Io facevo il liceo dai Salesiani, e lui pure rimase colpito, cioè lui spiegava a noi, era un uomo molto colto, era anche il professore di lettere, spiegava a noi che questo fatto che Gesù si sia fermato, cioè si sia rimasto nascosto per 30 anni, cioè nascosto, sì, non so se usava questa parola, a Nazareth, è veramente un grandissimo mistero, no? Cioè ce lo proponeva come... Poi allora io non mi ricordo se davanti a tutti o a lui gli dicevo, però io ho sentito questa spiegazione, ed era quella che avevo imparato in quel piccolo appartamentino che c'era allora, che allora era proprio un piccolo appartamento in via Ruffini, dove ci riunivamo con i liceali di vari licei di Milano. E in uno dei circoli io sentivo raccontare questo fatto che Gesù e prendeva da questo, effettivamente nel Vangelo c'è pochissimo su quei 30 anni di vita nascosta, in fondo San Luca narra, sono proprio pochi versetti, perché dopo, quando Gesù è proprio bambino e viene presentato al Tempio, poi tornano a Nazareth, il bambino cresceva, si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era con lui, era su di lui. Poi c'è lo squarcio dei dodici anni di Gesù, quando lui viene perduto e ritrovato nel Tempio, che è un altro grande mistero, come fanno a perderlo, come fanno a ritrovarlo, insomma. E, che però è uno squarcio che ci fa vedere che Gesù bambino, Gesù dodicenne, era già consapevole, no? Era consapevole di questo suo essere figlio di Dio, mi devo occupare delle cose del Padre mio. E allo stesso tempo era uomo come noi, quindi anche lui viveva una sua adolescenza, quindi un bisogno di autonomia dei genitori, per cui che lo porta appunto a fare una di queste fughe da adolescente, no? E mettendo insieme le due cose, no? L'essere Dio e l'essere uomo. E poi quando loro lo ritrovano e gli dicono: ma perché ci hai fatto questo? Ti cercavamo angosciati. E lui gli ripete quella parola pure misteriosa, no? Però poi, infatti, loro non comprendono. Scese dunque con loro, venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore, e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Quindi, come vedete, il Vangelo non dice nulla, cioè dice queste poche cose, dice molto, perché ogni parola è ricca di significato e chissà quanti infiniti libri sono stati scritti su queste parole, però poi non dettaglia cosa ha fatto a 13 anni, cosa faceva a 9 anni, poi a 18, insomma, che lavoro ha fatto, e questo è un grande mistero, diceva questo mio professore di religione. E io imparavo invece in questo centro, in questo, insomma, ascoltando queste le conversazioni che altri facevano nei circoli di formazione, che questo silenzio è per noi molto eloquente, perché in fondo, perché non dice nulla il Vangelo, ma perché la vita di Gesù è stata come la vita di ciascuno di noi, quindi come può essere diverso. Quindi il silenzio, perché permette dentro la ricchezza infinita del Verbo di Dio incarnato tutte le diverse possibilità che hanno gli uomini di vivere, ma in qualunque epoca e in qualunque latitudine, no? Quindi si può riconoscere in questo silenzio appunto un uomo del Medioevo, un uomo di oggi, un uomo, un asiatico e un africano, insomma, nelle situazioni di vita e di cultura più differenti, quello che fa un lavoro manuale, quello che fa un lavoro intellettuale, e quindi è un silenzio. In questo io penso che lo Spirito Santo ha illuminato, perché indubbiamente a questo sacerdote che si chiamava Don José Maria gli ha dato luci per fare questo nella Chiesa, no? Per illuminare il cammino di tanti di tante persone, tanti battezzati che stavano in mezzo al mondo, e tanti anche non cristiani che poi si avvicinano alla fede così, perché conoscere che Dio si è fatto uomo, che ha vissuto veramente come uno di noi ed è uno di noi, no? È nato da donna come ciascuno di noi, può avvicinare molti alla fede cristiana, no? E quindi ecco, questa è uno dei Vangeli che mi sono venuti in mente, forse il primo, no? Quando ho pensato quali Vangeli possono illustrare questa realtà nella Chiesa che compie 90 anni, che vuol dire che per un'istituzione è anche poco, no? E questo è uno, cioè il silenzio del Vangelo su questo aspetto della vita di Gesù, che però a noi può dire tanto. E provate a pensare che veramente ciascuno di noi, ciascuno di noi, quindi io, poi come sacerdote ho ricevuto un sacramento in più rispetto a voi che mi identifica con Cristo sacerdote, per cui ho alcuni aspetti che il normale laico battezzato cristiano non ha, la potestà di celebrare l'Eucaristia e di perdonare i peccati a nome di Dio e di predicare in modo con l'autorità della Chiesa la parola di Dio, no? Però al di là di questo io continuo ad attingere allo spirito di San Cosimo per il mio lavoro. Non è un lavoro come un altro, potremmo dire, però è un lavoro e ha tutte le dimensioni del lavoro, l'impegno, la preparazione, la fatica, la stanchezza, le delusioni, no? Ecco, Gesù in questa vita ordinaria ha vissuto un lavoro, lavorò con mani d'uomo, no? Dice il Vaticano II, quindi ha amato col cuore di un uomo, no? Quindi ecco, queste dimensioni sono dimensioni perenni dello spirito cristiano, però vengono arricchite dai carismi che lo Spirito Santo dà nella Chiesa, e San José Maria ha ricevuto un po' questo carisma di cogliere il valore della vita ordinaria di Gesù e anche di cogliere in modo con una certa profondità il fatto che il normale battezzato è anche lui, non solo sacerdote, perché dire il cristiano alter Christus ipse Christus è un'antica così frase della tradizione cristiana, che però si riferiva in molti casi al sacerdote, no? Altro Cristo, lo stesso Cristo. E lui la applica, non so se è l'unico, forse no, però o sicuramente no, però la applica con molta certezza al normale battezzato, cioè tu, no? Ciascuno di voi può pensare, io nel battesimo mi sono inserito in Cristo, mi sono immerso in Cristo, si può dire così, no? Quando non so, guardo questo marmo, la rotondità di questo, e mi viene in mente però che di questo arredo di questo oratorio, e però penso che in questa stessa posizione, quando io facevo una meditazione di questo tipo che l'ho fatta per alcuni anni, facevamo un ritiro nel battistero del Duomo di Verona, no, come questi duomi, queste cattedrali medievali a un battistero che è tutta una chiesetta fatta apposta e che nel suo cuore ha una piscina ottagonale, no? Istoriata meravigliosamente, opera d'arte. E di fronte a quel battistero io pensavo, e a volte lo dicevo, pensate quante generazioni di uomini e donne di questa terra sono diventati cristiani immergendosi in quest'acqua, no? La riempivano d'acqua e l'adulto cristiano si immergeva totalmente, poi riemergeva per tre volte, no? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e che significava in questo modo il morire all'uomo vecchio, al peccato, e il rinascere, il risorgere in Cristo, con Cristo, per Cristo, con Cristo in Cristo, all'uomo nuovo, no? Per cui poi dopo gli davano la veste bianca e certo, quindi battezzato forse da adulto per il cristiano è più facile avere questa consapevolezza, ma sono un uomo nuovo, sono rinato in Cristo e quindi sono un altro Cristo. Mi metto questa veste bianca e quindi mi ricordo di quello che dice San Paolo in quella lettera, dice rivestitevi di Cristo, no? È un'immagine questo rivestirsi che però significa veramente che è cambiato qualcosa di essenziale, no? Io sono diventato, in quel momento del battesimo, sono diventato parte di Cristo, sono dentro alla sua vita e sono un uomo nuovo e sono un cristiano. Ecco, volendo capire, tornando all'origine, qual è il senso di questa che è paragonabile in fondo a tutte le altre realtà nella Chiesa, quello che però con una specificità, ecco, questa realtà dell'Opus Dei si propone, e la Chiesa ci incoraggia a fare questo, a fare in modo che molti battezzati riscoprano il valore del loro battesimo, no? Il valore di chiamata alla santità del loro battesimo, cioè chiamata a essere Cristo, no? Perché questo significa. Ma come in un'epoca, dopo tanti secoli, in cui l'ideale del cristiano era, o coloro che venivano posti ad esempio del cristiano erano, che so, i missionari o i martiri oppure, ecco, chi dedicava la vita a Dio nel monachesimo, quindi la percezione diffusa era, no? Poi il Vaticano II ha proprio accolto questo messaggio e diffuso, anche se poi per viverlo e per, insomma, bisogna sempre continuare, no? Ogni generazione che nasce ha bisogno di questo annuncio. Però l'idea era che il normale cristiano che rimaneva nel posto che la vita gli aveva assegnato o che faceva un lavoro con un altro aveva meno dignità, aveva meno dignità. Ma anche il normale prete, che non andava a seguire un cammino speciale di santificazione, considerava se stesso un po' un prete di serie B, o un laico, si considerava, laico cosa va, il prete, no, lei che è più vicino a Dio, lei preghi, lei faccia, no? Invece questo annuncio, l'annuncio del Vangelo non è così. Non è così. Il Vangelo, la buona novella, comincia con una coppia di sposi, no? Così come anche l'Antico Testamento comincia con Adamo ed Eva, non con un prete. E solo che questo, ecco, poi nella vita pratica della Chiesa, sai, chi predicava nelle chiese era il prete, la catechesi era tutta per lui e tutti andavano in chiesa perché succedeva così nei secoli passati e dovevano semplicemente obbedire a queste indicazioni e cercare di andare a messa, confessarsi almeno una volta l'anno per Pasqua. E c'era molta santità, sicuramente, perché lo Spirito Santo agiva, forse più di adesso, però a un certo punto il Signore ha voluto che nella Chiesa nascesse la consapevolezza di questo e quindi senz'altro quando San José Maria comincia a predicare non c'era tanto questa consapevolezza, no? Era una novità e veniva percepita come una novità e quindi questo Vangelo, cioè il valore divino della vita normale, cioè Dio, cioè tu Gesù che sei Dio hai vissuto una vita comune, cioè come uno qualunque, peraltro in un paesino un po' sperduto e poco considerato anche nel popolo di Israele perché non era citato nelle scritture, perché era una terra di pagani, di mescolata con i pagani. Tu hai vissuto una vita come la nostra, un giorno uguale all'altro, e di fatto per questo non hai voluto dire a nessuno prima del tempo che la tua natura di figlio di Dio. Sapevi anche che era una novità così grande che avrebbero resistito fortemente, ti avrebbero considerato eretico e ti avrebbero messo sulla croce, e questo faceva parte del tuo disegno di redenzione. Però se noi ci soffermiamo sulla quotidianità delle sue giornate di lavoro, di amicizia con i suoi amici, di partecipazione alla vita sociale del suo paese, anche la vita religiosa, andava in sinagoga, poi a un certo punto ha cominciato da adulto a parlare nella sinagoga della profezia di Isaia, che dice si è compiuta questa profezia nei nostri giorni, cioè sono io quello di cui parla questo libro, e allora l'hanno preso, portato sul ciglio del monte per buttarlo giù, i suoi compaesani, no? Quelli che l'avevano vissuto con lui tutti quegli anni. E allora noi desideriamo ancora una volta, come dire, fare un atto di fede. Credo, Gesù, che credo nel battesimo che tu mi hai dato. Cioè, credo che quel battesimo ha fatto vivere dentro di me la Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Cioè, dentro di me, da quando sono, noi quasi tutti penso, da bambini neonati, da quando sono stato battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, immerso nell'acqua, qui a Milano ci immergono solo con la testa, no? Perché è ancora un ricordo di quell'antico battesimo per immersione. Ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In quel momento, in un modo nuovo, io già ero creatura di Dio, ero nato perché tu, Signore, mi avevi formato nel seno materno, no? Come dice il Salmo 139, tu mi hai intessuto nel seno materno, tu hai fatto di me una meraviglia stupenda. Però, in quel momento comincio ad avere una vita divina dentro di me, nuova. Il Padre dentro di me genera il Figlio e il Figlio ama il Padre ama il Figlio, e questo amore è lo Spirito Santo fin da bambino. Sono tabernacolo di Dio, sono tempio dello Spirito Santo. E questo che può essere sconvolgente, eppure se guardo Cristo, lo guardo anche appunto con la vostra età, cioè lo guardo ventenne o trentenne o quindicenne, appunto lì a Nazareth a fare la vita dei suoi coetanei, niente di strano, di straordinario, perché l'unica cosa straordinaria è scritta qua, probabilmente così, no? È quella fuga dei 12 anni. E quindi io credo che la mia vita di ogni giorno non è facile, Gesù, perché la tentazione di pensare, credo che può essere una vita divina, tentazione, e poi una vita santa, una vita che serve alla redenzione del mondo, cioè che può essere collegata con la tua salvifica, cioè ha un senso divino. Ma come il mio studio, il mio gioco, il mio sport, le mie amicizie, la mia partecipazione alla vita sociale, il mio divertimento, tutto questo sì, le mie sofferenze, le fatiche. Ecco. Il peccato no, perché certo quello, però se lo riconosco e chiedo perdono, di nuovo ritorno ad essere tuo amico, no? Tuo amico e tuo intimo amico. Ecco, il secondo brano che mi viene in mente pensando a questa grazia che il Signore diede a Santo José María, a questo giovane Don José María il 2 ottobre del 1928 a Madrid, è proprio quel passo in cui Gesù, Vangelo di Giovanni, capitolo 15, e il discorso della vita e dei tralci, a un certo punto parla ai suoi discepoli dell'amicizia, no? E come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. E qui in effetti Gesù non sta dicendo siete cristiani se siete i miei figli, i miei discepoli, i miei partecipate alla mia vita come la vite il tralcio alla vite, no? E che fa molto frutto perché è unito alla vite e quindi poi il frutto dell'uva arriva naturalmente. Questa è la nostra vita secondo Gesù, secondo questa immagine, ci chiede di stare uniti a Lui per dare frutto, un frutto di bene, un frutto di pace, un frutto d'amore, no? Noi in fondo siamo chiamati, perché questo discorso chiamata alla santità oggigiorno può anche risultare una parola strana, difficile, oppure dipende da cosa abbiamo in mente per chi è un santo, no? Anche quando Don José Maria ha cominciato a parlare di questo, probabilmente la gente pensava ai santi e vedeva questi quadri delle chiese, e probabilmente era gente un po' lontana dalla propria esperienza. Invece, se noi lo interpretiamo come chiamata all'amore, a recepire l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo dentro noi e a diffonderlo attraverso la nostra vita, nel lavoro, no? Quante volte anche San José Maria nella sua predicazione parla di amore, cioè lavorare per amore, con amore. Per esempio, no? Questo è il cuore della santificazione del lavoro. E qua, in questo testo importantissimo, bellissimo, del Vangelo di Giovanni, sempre il mio professore di religione una volta si confidava, diceva che aveva avuto un momento di crisi nel suo sacerdozio e l'avevano salvato questi capitoli di San Giovanni. No? E cioè lui rimeditava questi capitoli dei discorsi dell'ultima cena, no? Rimeditando nella sua preghiera gli avevano salvato la vocazione. E dice Gesù: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiedete al Padre mio nel mio nome ve lo conceda. Gesù dice, perché allora i discepoli erano soliti scegliere il loro maestro, no? E invece nel caso di Gesù, tranne i primi due che dicono dove abiti, però è sempre lui che li chiama, no? Va sul monte, prega e poi li chiama, dice, ecco, i dodici. E questa parola, vos autem dixi amicos, no? Vi ho chiamati amici, era una parola che per esempio a San José Maria piaceva tanto. A volte quando facevano lunghi viaggi in macchina raccontavano quelli che stavano con lui che a volte predicavano una meditazione come questa improvvisandola e prendeva da questo Vangelo, no? E prendeva da questo Vangelo o da, ecco, spesso, no? E allora lui certo dovendo dire in un'epoca in cui non era molto abituale a un comune cristiano, un cristiano normale, a un battezzato, che anche a lui competeva il fatto di portare Cristo agli altri, e ha avuto questa illuminazione, cioè leggendo questo Vangelo e contemplando Gesù, che è l'amicizia, che è una realtà così umana, così bella, così diffusa, così naturale anche, a volte può essere anche faticosa, e c'è chi ha il dono dell'amicizia, chi deve, insomma, sforzarsi per aprirsi, però, e questa è la nella normalità dell'amicizia, quindi lui, Gesù in questo caso dà una bellissima definizione di amicizia. Vi ho chiamati amici perché vi ho confidato le cose più intime che ho, no? Cioè, quello che il Padre mi ha detto, che poi è tutto, perché la parola di Dio, il Verbo di Dio è colui che è la conoscenza di Dio, quindi è proprio tutto quello che il Padre sa, anche il Figlio, no? Lo sa, e quindi costituisce proprio la sua natura. E lui ha confidato ai discepoli se stesso, e così il cristiano si confida se stesso nella normalità dell'amicizia. Lì dentro passa Gesù, ma lo dice Gesù nel Vangelo: quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo, io sono presente. E la vita contemplativa in mezzo al mondo, no? di cui si sentiva apostolo, è proprio questa capacità che noi possiamo avere per fede, te la chiediamo, Signore, come dono, di vederti quando noi siamo insieme con un nostro amico. Poi a volte non parleremo specialmente di te, semplicemente lo ascolteremo, altre volte gli daremo una parola di speranza, e altre volte sarà lui a chiederci motivo della nostra serenità nonostante i problemi, del nostro sorriso nonostante le lacrime. E allora sarà facile dirgli: ma io, certo, io ho ricevuto il dono della fede in Gesù Cristo, io vado davanti all'Eucaristia e so che lì c'è Dio che mi ascolta, lo ricevo dentro di me, gli chiedo perdono dei miei peccati e mi sento perdonato. E così, nella semplicità di una parola autentica da amico, Gesù si fa presente e passa. Poi, ma con questo poi concludo per non dilungarmi, ma mi sono già dilungato. Il terzo Vangelo che mi viene in mente, ma lo lascio a voi da meditare, è quello dove parla della libertà. Perché certo, sì, San José Maria è stato un grande apostolo anche della libertà, nel senso che queste parole di Gesù sono le parole che una volta un intervistatore chiese a Giovanni Paolo II: se fosse appunto da naufrago su un'isola deserta, potessi salvare solo una parola del Vangelo perché tutto il resto ti verrebbe tolto, cosa farebbe lei? Quale parola sceglierebbe tra tutte quante? E lui, senza dubitare, rispose così: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Sono parole straordinarie di Gesù, che poi in un altro passo dello stesso Vangelo Gesù dice: io sono la verità. Però è vero, Gesù, che tu questo grandissimo mistero della libertà che ci appassiona, perché tu sei libero e tu ci doni la libertà dei figli di Dio, e non è facile viverla nella vita terrena, in mezzo al mondo. Sarà facile in paradiso, qua è faticosa la libertà da conquistare, da esprimere, ci sono molte difficoltà, però è inevitabile che si debba vivere nella libertà per un cristiano che sa di essere Cristo in mezzo al mondo. È libero perché è cittadino del mondo, è libero perché è stato creato libero da Dio. Io vi metto la vostra vita nelle vostre mani, dice il libro, mi pare sia il libro della Sapienza. Vi ho creati e vi ho messo la vostra vita nelle vostre mani, siete liberi come creature. E poi dopo: sì, il peccato vi toglie la libertà, però io ve la ridò perché vi ho battezzato, io ve la ridò perché sono andato sulla croce per conquistarti questa libertà da figlio di Dio. Io sono chiamato a essere libero come Gesù è libero. E se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità vi farà liberi. La libertà è un dono che abbiamo ricevuto da Dio, ma è anche un compito, è anche un esercizio, è anche una scoperta. Ti chiediamo, Gesù, il dono di renderci conto di questo dono immenso della libertà e di saperlo mettere a frutto nella nostra vita, con la grazia che Maria ci conquista con la sua mediazione.